Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Durante gli accertamenti si scopre che mio nonno ha 17 anni. A quell'età avrebbe dovuto essere già sotto le armi. Gli diedero del renitente e del disertore. Lui spiegò che la cartolina non gli era mai arrivata. Non era un pacifista attivo, aveva semplicemente in casa due zii reduci della Prima Guerra Mondiale. Uno era senza un occhio e l'altro senza una gamba. Io sono Gianluca, vivo a Fiello Ciglia, ho 43 anni, sono sposato e faccio l'impiegato. Noi non ci rendiamo conto di quanto comoda sia la nostra vita. Buongiorno a tutti, è lunedì 18 marzo del 2013, sono le 16:08, quasi 9, questa è Radio 24, il programma invece Voi Siete Qui. Se è la prima volta che capitate da queste parti, rimanete in ascolto per tutto il tempo che potete di Radio 24, ma in assoluto ascoltatevi questa storia, è una storia che racconta di quanto sia stata scomoda invece la vita del protagonista del racconto di oggi, che è il nonno di Gianluca, l'autore della storia. Questo programma in realtà racconta ogni giorno una storia diversa. Ogni giorno una persona che ha voglia di raccontare un piccolo pezzo della sua vita e che quindi rende questo programma una sorta di grande ricettacolo delle storie di questo paese, di questa epoca e delle persone che ci vivono in questo posto. 349-238-6666. Torniamo alla frase iniziale. Noi ci siamo guardati in faccia quando abbiamo letto la storia del nonno di Gianluca, che appartiene indiscutibilmente alla categoria nonni, o meglio storie dei nonni o racconti dei nonni. Moltissimi di noi, cioè per noi intendo persone più o meno della mia generazione, attorno ai 40, hanno avuto dei nonni che sono stati in guerra, che l'hanno vista, che l'hanno fatta o ci sono passati di fianco, uomini o donne. Le donne di solito stavano a casa e arriva il pippo e si nascondevano nei fossi, i nonni invece andavano là, in Africa, il mio in Africa personalmente, molti altri comunque a fare la guerra. Quei racconti lì quindi sono entrati nella nostra vita, nel nostro vissuto, e la categoria nonni appartiene a quella categoria, appartengono proprio tutte quelle storie lì. La storia di Gianluca appunto fa parte di questo gruppo di storie, però ha proprio, per come si sviluppa e per come suo nonno finisce al fronte, veramente alla fine quando leggi questa storia, quello che è capitato a noi è stato dirci: noi non ci rendiamo conto di quanto comoda sia la nostra vita. Non ce ne rendiamo conto. Poi capita che qualcuno invece, di proposito, decida di complicarsela la vita. Ed è il caso di Carlo Taglia. Carlo, noi ti stiamo cercando da praticamente due giorni, non ti troviamo. Carlo Taglia è uno di quelli che appunto che appartiene a questa seconda categoria, quelli che la vita comoda evidentemente non vogliono farsela andare bene. Nel suo caso, Carlo in questo momento si trova in Siberia ed è partito quasi due anni fa, direi, perché dice che ha percorso, leggo dal suo profilo Facebook, ha percorso 95.000 chilometri, sono 528 giorni che è in giro, ha attraversato 24 paesi in giro per il mondo senza prendere aeroplani. Questo è quello che sta facendo Carlo. Se però in qualche modo anche voi, senza girare il mondo senza aerei appunto, ogni tanto vi complicate la vita, di proposito, 349-238-6666, se fate una cosa invece che un'altra, se fate una scelta azzardata sapendo che poi comunque ci sarà qualcosa che va storto, oggi è la puntata per voi. 349-238-6666. Tutto perché il nonno di Gianluca, tanti tanti anni fa, mentre faceva un giro in bicicletta, fu fermato dai carabinieri e si scoprì che non aveva il bollo. Primavera del 1931. Nella zona del Polesine, dove i confini tra le province di Verona, Padova e Rovigo si confondono, un giovane adolescente con le idee da adolescente sta pedalando lungo l'Adige, su una strada bianca, nell'afa umida della pianura. C'era il problema del cibo all'epoca, ma mio nonno pedalava per andare a suonare uno strumento. A lui piaceva il violino e per trovarne uno e fare delle prove doveva pedalare chilometri ogni giorno. Quel giorno però lo fermarono due carabinieri che gli chiesero dove fosse il bollo. Sì, all'epoca si pagava il bollo per la bicicletta. La famiglia di mio nonno non aveva i soldi per mangiare, figuriamoci se aveva i soldi per il bollo della bicicletta. Quindi mio nonno dovette seguire i carabinieri in caserma per gli accertamenti del caso e per scontare 3 giorni di reclusione a pane e acqua.

E sei riuscito ad arrivare a chiedergli le cose che adesso gli vorresti chiedere? Te lo domando perché invece mio nonno, che ha una storia non simile, no, non così rocambolesca come quella di tuo nonno, però è stato in Libia, combattuto al fronte, ed è mancato quando avevo 10 anni, io, nell'85, e ovviamente non ho fatto in tempo a chiedergli un sacco di cose che avrei voluto chiedergli. Lui invece, insomma, qualche anno buono sei riuscito a godertelo. No, io me la sono goduto molto bene, anche perché poi nei primi anni, quando ero ancora bambino, io lo seguivo sempre perché i miei genitori lavoravano, quindi diciamo che è stato il primo babysitter. Quindi poi quando sono cresciuto un po' mi sono allontanato, perché facendo le università mi sono dovuto allontanare, poi l'ho ritrovato e le domande gliele ho fatte, però alcuni argomenti erano molto evasivi, lui non li voleva raccontare logicamente, perché penso che come per tutti sia stata traumatica la situazione durante la guerra. Qual è l'insegnamento più grande che ti sei portato a casa stando con tuo nonno? Magari non qualcosa che lui ti diceva, non una frase vera e propria, però un modo di essere o una filosofia di vita, se mi passi il tempo. È semplicissima, fare, perché lui non ha smesso di lavorare nemmeno quando è andato poi in pensione, e mi ricordo sempre le cose che mi sono rimaste impresse sono state i pomeriggi interi in mezzo all'orto, lui c'aveva un orto, e lui lavorava sempre nell'orto, gli piaceva vedere crescere la frutta e la verdura, diciamo la creazione gli piaceva, non la distruzione. E questo è il grande insegnamento che ho imparato: creare, non distruggere. E invece la bicicletta, l'idea che tu ogni giorno vai in bicicletta, anche adesso mi dicevi, abbiamo scelto il giorno giusto, no? Che ci sono 20 cm di neve e tu niente, in bicicletta. In bicicletta, sempre. Beh, diciamo che la bicicletta per me è proprio il modo di ricordarmi della sua vita, delle sue fatiche. E quindi è un modo per ricordarlo sempre, andare in bici ogni giorno, sia per divertimento che per lavoro. Quindi diciamo così, ogni giorno la uso, in un modo o nell'altro. Mi verrebbe da chiederti se hai da qualche parte la bici di tuo nonno, ma... No, me l'hanno rubata. No. Sì, l'hanno rubata una volta, perché quando lui me la regalò, non quella con cui era stato venuto a Bolzano, ma un'altra, la sua vecchia bicicletta, me l'ha regalata, poi un giorno andò al lavoro, l'ho lasciata sotto il lavoro perché si era rotta, ho detto la prendo il giorno dopo, e il giorno dopo non l'ho più ritrovato, ho trovato il cavalletto attorcigliato attorno al lucchetto e la bici che era scomparsa. Ho letto una statistica sul numero di biciclette rubate, era credo su Milano, quindi era... sì, però e mi ricordo anche che qualcuno suggeriva i metodi, no? Che si possono targare o mettere un numero sul telaio, però questo è un altro paio di maniche. Un'ultima cosa, invece, del periodo di guerra, qual era la cosa che tuo nonno poteva raccontare e ti raccontava volentieri? Mi sembra che fosse l'aspetto sociale fosse molto importante, no? Sì, no, lui di quello che è successo durante i combattimenti al fronte, dico la verità, non mi ha mai raccontato molto. Mi ha raccontato alcune cose, ma lui mi raccontava le libere uscite, le grandi abbuffate, la vita dentro il campo, però dei combattimenti non mi ha mai raccontato nulla. Nulla. Devo essere... No, nulla no, però poco, perché non è stato mai così aperto. Dimmi, e poi ti saluto Gianluca, dimmi invece di queste foto con le bellezze locali che arrivano dal 1940 ad oggi. A parte che sono tutte in bianco e nero, c'è lui con queste donne nere... vestite, ma premetto, non era sposato mio nonno, non aveva nulla. No, ma c'è, ma figura, aveva 18 anni, mi sembra di 18-19. Quindi c'ho tante, parecchie foto di mio nonno con queste bellezze, sempre a semi nudi, perché di là era, e lui era rimasto meravigliato di questa cosa, me la continuava a raccontare. E poi quando andava a fare il bagno in questa sorgente che c'era vicino, mi raccontava, c'erano queste donne che prendevano l'acqua, che lavavano, e lui è rimasto affascinato di queste cose qui. Gianluca, mi piace immaginarti anche oggi pomeriggio, se uscirai di casa sotto la neve in bicicletta, e ti ringrazio per la storia e per la chiacchierata. Ti ringrazio a te, grazie, buon lavoro. Buona giornata, ciao, grazie mille. Ciao, ciao. Arriva un messaggio al 349-238-6666 che dice: a Castagnaro piove, ti ringrazio Filippo, ci piace sempre saperlo. Invece abbiamo controllato, perché ne sono arrivati diversi che dicono ti riferisci all'assicurazione, non il bollo, e invece non è vero, perché abbiamo verificato che Umberto I nel 1897 istituì il bollo per la bicicletta, che andò avanti fino a non so quando, ed era una tassa comunale, bollo comunale. Per cui, ragazzi, più di così non possiamo dirvi, più di così arriva Dario Ricci a dirvelo, io più di così non vado. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui.